Un buongiorno a Lorenzo Balbi, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo di nuovo qui al Mambo per la nuova mostra Frontiera 40 Italian Style Writing. Raccontaci qualcosa di più. Bah, sì, Mambo cerca di riconfermare questa sua attitudine alla sperimentazione, all'apertura verso i linguaggi dell'arte urbana, espressioni delle controculture, e lo fa anche in un'ottica di celebrazione, da 40 anni dalla celebre mostra di Frontiera di Francesca Linovi, mossa purtroppo postuma, realizzata sul progetto che Francesca Linovi fece prima di morire nell'83, e lo fa cercando anche di indagare un possibile formato di una mostra di graffitismo, writing e arte urbana. Che senso ha portare all'interno di un museo dei fenomeni che sono nati e devono essere rispettati per stare fuori dagli spazi chiusi, fuori dallo spazio? Ecco, proprio questo è un po' il limite del progetto e il margine più grande di interesse. Quanto il museo è uno spazio urbano, uno spazio aperto, siccome con l'attività del Mambo tentiamo di dire che il museo non è un edificio chiuso in se stesso, ma è come una piazza, un parco aperto, percorribile, questa mostra va proprio anche un po' in quella direzione, di pensare agli spazi di museo come uno spazio di tutti, uno spazio urbano dove appunto anche questi fenomeni dell'arte urbana possano trovare una casa e un ambito di interesse. Quindi devo ringraziare Fabiola Naldi che ha proposto questo progetto, che è una grande ricognizione come fosse un po' un dizionario, un vocabolario, un'enciclopedia del graffitismo e del writing italiano, con oltre 180 artisti coinvolti che hanno mandato dei bozzetti. Questo sempre nell'ottica di pensare cosa si può esporre all'interno di un museo, di un fenomeno che è nato per stare sui muri, sui treni, e che anche il più delle volte attraverso forme di illegalità, di marginalità. E Fabiola ha contattato questi che sono appunto un'intera generazione di graffitisti e writer italiani, e gli ha chiesto un bozzetto che possa testimoniare il loro modo di fare, il loro modo di esprimersi, e nella maggior parte dei casi questi bozzetti saranno poi donati al museo, quindi costituiranno realmente un archivio del graffitismo e del writing in Italia. Tutto questo celebrando i 40 anni di quella mostra così seminale che servì certo a imporre Francesca Linovi come una delle critiche più importanti del periodo, ma anche a delineare la linea, la vita della Galleria d'Arte Moderna di Bologna come un ente pubblico preposto anche alla sperimentazione tra le arti. Grazie mille. Grazie a voi.